La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 primi 29 secondi qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Una giornata che sui mercati è molto segnata dalla decisione attesa, insomma, la novità, visto che l'economia giapponese sprofonda sempre di più in deflazione e recessione, e questo malgrado i tanti fan che so esserci anche tra gli ascoltatori di Radio 24 di politiche estremamente lasche monetarie come quelle seguite dalla Banca Centrale Giapponese, che, come vedete, io sorrido un pochino perché sono molto contrario a queste impostazioni, non producono gli effetti attesi. Però, detto tutto questo, la decisione di passare a tassi negativi da parte della Banca Centrale Giapponese entusiasma i mercati, che, come ovvio, spingono sempre per nuova droga monetaria. Ma non parliamo di questo oggi. Io vi dico solo fin da adesso che domani dalle 10 alle 12 buona parte del nostro appuntamento settimanale con i conti della Belva sarà dedicato a questo accordicchio sul credito deteriorato con la Commissione Europea, a spiegare in cosa non funziona, in cosa secondo noi, a differenza di altri, non eviterà aumenti di capitale, fusioni, cioè di mercato. Però questo lo vediamo domani. Io vi do appuntamento sin da adesso con Carlo Alberto Cannevale Caffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, Rita Fatiguso, a 2 ore di riflessione sui tanti annunci che l'Italia avrebbe ottenuto, gli aiuti di Stato, tutte le droghe che vengono indicate da molti come necessarie per risolvere problemi che invece nascono a casa nostra da banche poco capitalizzate per non far perdere il controllo di chi le controlla. Questo è il punto vero. E da credito discrezionale agli amici degli amici, non solo in Banca Etruria. Quindi domani. Oggi invece è una trasmissione in cui io mi appellerei soprattutto ai medici in ascolto, chiedendo loro di intervenire all'800240024 e di mandarci almeno un sms al 349-238-6666, perché parliamo di che cosa capita a questa nuova veste che i medici si vedono calata dall'alto, dallo Stato, oltre alle responsabilità delicatissime che esercitano nella loro professione nei confronti della salute di tutti noi cittadini, adesso hanno anche un altro cappello in testa di agenti dello Stato tributario. Non sono più solo i commercialisti, i professionisti privati che in realtà svolgono il mestiere di intermediari con i contribuenti, ma investiti sempre più di responsabilità patrimoniali, civili e penali dallo Stato se sgarrano e non fanno gli interessi dello Stato. Da quest'anno ci sono anche i medici. Perché? Perché i medici hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio, di riversare appunto allo Stato tutti i nominativi e tutte le prescrizioni che hanno effettuato nei confronti dei loro pazienti, perché sono tutti i dati che poi devono essere tenuti ben presenti, elaborati per il 730 precompilato. La direttrice dell'Agenzia delle Entrate ha già preavvisato tutti noi, tutti voi che siete interessati al precompilato, che l'anno prossimo non ci saranno le spese farmaceutiche, perché la legge era così incomprensibile che le farmacie non avevano capito bene che cosa dovevano tenersi da parte per poi riversare i dati all'Agenzia Tributaria. Ma i medici invece, quelli sì, hanno l'obbligo immediato, e l'obbligo immediato prevede delle sanzioni per ogni dato omesso, cioè un nome omesso, una prescrizione sbagliata, eccetera, cioè per ognuno un minimo di 100 euro di sanzione, e le sanzioni sono cumulabili fino a 50.000 euro. Avete capito bene? Fino a 50.000 euro. Io credo che tutti i medici lo sappiano in ascolto. Se non lo sanno, è bene che ne tengano conto, ma credo che le vostre associazioni vi abbiano tutti ben informati del rischio a cui siete esposti per questo onere fondamentale che ricade d'ora in poi sulle vostre spalle per i dati precompilati tributari da far trovare ai contribuenti che risolvono il loro rapporto tributario solo con il 730. E allora a questo sfondo, che già c'è e ne avevamo accennato ai conti della Belva, si aggiunge adesso un altro pasticcio, che anche questo attiene esattamente alla possibilità per tutti i medici di dare dati corretti allo Stato. Qual è il pasticcio? Se ne sono occupati oggi alcuni quotidiani, o in particolare in mano La Stampa di Torino, che è il pasticcio che deriva dal fatto che le liste anagrafiche, quelle che risultano all'Istat dopo il censimento del 2011, e invece le anagrafi dei comuni che tengono, appunto, svolgono la funzione di Stato civile nel nostro paese, queste due liste non tornano. Ma non tornano non per qualche centinaio o per qualche migliaio di unità, Pensate che la differenza numerica quantitativa tra i censiti residenti dal censimento 2011, che la cui trattazione dura due anni e mezzo complessiva con l'Istat, è in corso di accelerazione, ma insomma è una cosa lunga, e invece gli identificativi in carico alle anagrafi dei comuni, la differenza raggiungeva quasi i 3 milioni di unità, 3 milioni di unità, cioè 59 milioni per l'Istat, 59 milioni e 400 e rotti mila, e 62 milioni e rotti invece per i comuni. E l'evidenza di questo, che è già chiara da tempo all'Istat e ai comuni che hanno avviato delle azioni per far tornare i conti, i comuni con delle ispezioni e così via, per sanare discrepanze, diventa però drammaticamente rilevante ai fini dell'obbligo che avete voi medici in ascolto. Perché è capitato che parecchi medici, per esempio a Torino il dottor Giuseppe Sampieri, si è trovato nella condizione di avere dei pazienti che risultavano cancellati nelle liste anagrafiche, ma erano pazienti invece ai quali lui che seguiva dal punto di vista professionale, sanitario, a cui doveva fare delle prescrizioni, ma si trovava a quel punto nell'impossibilità di farle le prescrizioni, se non col vecchio metodo, cioè non con la prescrizione digitale, elettronica, ma con quelle dei modulari, delle le vecchie ricette, le ricette rosse, perché, per capirci. Se non che alla ASL il dottor Giuseppe Sampieri di Torino, che scrupolosamente, presso la quale scrupolosamente è andato a informarsi, posso procedere nel frattempo, poi mi direte come fare per riversare i dati al fisco, ma intanto io posso fare le prescrizioni ai pazienti che esistono e che hanno bisogno di me, ma non ci sono più nell'anagrafe, posso usare le vecchie ricette? E la risposta della ASL lo ha lasciato ulteriormente preoccupato, perché la ASL ha detto al dottor Sampieri: beh, sì, però ci tocca dirti, caro dottor Sampieri, che ti esponi al rischio di essere indagato penalmente per truffa ai danni dello Stato, cioè per prescrizioni a persone inesistenti. Allora, il dottor Sampieri, a questo punto, di fronte al fatto che A, rischia sanzioni per i dati fiscali non correttamente dichiarati a fine mese, A, B, nel frattempo anche solo a fare le ricette ai signori che non esistono e che pure esistono, ma non esistono nell'anagrafe pubblica, di esporsi al rischio anche di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato, è andato giustamente dritto ai giornali a dire: scusate, intanto diamo pubblicità al caso, sia chiaro che io non voglio truffare niente e nessuno, qualcuno metta mano a questo caos. Ripeto, si tratta di un caos che riguarda centinaia e centinaia di migliaia di italiani, non proprio un erroretto statistico così, e che si deve al fatto che in realtà per risultare nel censimento uno deve, lo sapete, no? Noi dobbiamo rispondere a dei questionari, può capitare che qualcuno si stia trasferendo di qua di là, non adempia questo obbligo, ed ecco qua cosa succede. Naturalmente c'è una percentuale altissima anche poi di stranieri e immigrati che nel frattempo gonfiano questa lista. Allora, per capire bene, come i medici affrontano il loro nuovo obbligo di agenti tributari dello Stato, B, come affrontano questo problema aggiuntivo che si aggiunge al primo delle prescrizioni e del rischio di esporsi a truffa ai danni dello Stato nel caso di centinaia di migliaia di italiani scomparsi dall'anagrafe ma che pure esistono, abbiamo con noi il segretario generale nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia. Però, medici che ci state ascoltando, davvero telefonateci, perché vorrei capire in realtà voi come vi regolate. Il segretario generale nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia si chiama Giacomo Milillo, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, innanzitutto, voi, quando è risultato chiaro che i medici avevano questo importante onere tributario, ma ci sono delle sanzioni così pesanti, che cosa avete fatto? Beh, noi abbiamo fatto quello che potevamo, cioè protestare, mettere in evidenza quanto questo fosse inappropriato, ma soprattutto dannoso, perché il tempo che viene detratto all'assistenza è salute perduta. Mentre invece ritenevamo che ci fossero dei professionisti e dei funzionari dedicati alla competenza fiscale. Fra l'altro noi siamo, virgolette, ignoranti sulla materia, e però siamo vincolati non solo dalla legge del Ministero dell'Economia, ma anche da quelle della privacy. Bisognerebbe entrare nel merito dei vari passaggi per mettere in evidenza tutti. Ma voi avete ricevuto un prontuario dettagliato che è girato poi a ogni medico su come concretamente questo trasferimento di dato è, come anche rispettando la privacy del paziente, dovrà essere realizzato per non incorrere in problemi, proprio per il medico che lo inoltra, dico. Sì. Dunque no, noi non abbiamo ricevuto assolutamente niente. Prima di tutto abbiamo dovuto noi come associazioni cercare di districarci e fra l'altro anche cercando di sentire l'Agenzia delle Entrate, tutti gli esperti possibili e immaginabili, abbiamo concluso che non si può fare altro che trasmettere tutte le ricette lasciando all'Agenzia delle Entrate la possibilità di discriminare quella che è detraibile da quella che non lo è, perché francamente altrimenti i medici dovrebbero prendersi, dovrebbero fare un master in detraibilità, devo dire, ci sono altre cose da fare. Poi ci sono i tempi che non lo consentono, per cui sostanzialmente poi il medico che può fare? Se non qualcuno che vuole arrangiarsi da solo, l'unica cosa che può fare è trasmettere tutto al commercialista e ci penserà lui. E qui interviene... No, ma trasmettere tutto al commercialista significa che poi a quel punto significa che il medico deve anche pagare di tasca sua, però. Ah, questo sicuro, ma guardi che poi alla fine, quando si innescano questi meccanismi, il commercialista legittimamente aumenterà la sua parcella e molti medici magari non aumenteranno le loro, ma qualcuno le aumenterà e pagherà di più il cittadino, non è che poi... Il meccanismo è sempre quello. Il meccanismo per un costo di processamento di dati che serve allo Stato, scusate, perché questo oramai sta diventando una regola, che viene accollato ai privati, è un po' singolare. Perché ma è normale. Sì, è purtroppo ormai è sempre più normale. Per il fisco. Sì, cioè, ormai i medici sono diventati dei burocrati controvoglia perché tante procedure, tante attività sono demandate a loro. Quindi non c'è scampo da questo punto di vista, noi lo denunciamo da tanto tempo, però la situazione è questa. Fra l'altro in un'atmosfera che lei ha descritto benissimo ed è di cui è ma neanche su una sanzione così, che a me sembra proprio, devo dire la verità, a me 50.000, fino a un tetto di 50.000 euro mi sembra una cosa manzoniana, cioè una grida manzoniana, nel senso, fatta per incutere terrore, nel senso che mi sembra una cosa totalmente spropositata. O no, mi sbaglio? Che hanno che quando si prendono dei provvedimenti che comportano degli obblighi per i medici, le sanzioni sono spropositate o si minaccia direttamente di radiazione dall'albo o di perdita del contratto di lavoro della convenzione. Ha cominciato Brunetta qualche tempo fa, ma poi non è cambiata l'atmosfera, quindi poi al lupo non so quando poi queste cose si possono realizzare. Purtroppo l'Agenzia delle Entrate non perdona, magari fa passare del tempo e non perdona. Certo, l'atmosfera che si vive sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia nei confronti della SL è esemplificata nella risposta che ha dato al dottor Sampieri. Appunto, perché gli ha detto: guarda, il problema c'è, vedi tu, ma se ne vuoi usare, usale, però certo ti esponi al rischio di truffa contro lo Stato, che dal punto di vista della risposta io abbraccio a distanza il dottor Sampieri, che vuole continuare a fare il medico, cari ascoltatori, cioè non è che dice io posso essere messo in condizione di non fare la ricetta a chi ha bisogno, però la cosa ridicola è che sia esposto al rischio di un procedimento penale se faccio il mio mestiere in presenza di problemi che derivano dall'inefficienza generale di altre amministrazioni pubbliche. Cioè, capite, cari ascoltatori, che è una condizione veramente un po' dura da digerire. Aspetti un secondo, Milillo, perché poi arriviamo anche a questo aspetto di cosa dite ai vostri associati nel caso ci siano pazienti che non risultano all'anagrafe, perché nel frattempo stanno arrivando le prime telefonate, iniziamo a sentirne una. Fabrizio da Milano. Fabrizio, prego. Buongiorno, sono un medico competente, quindi lavoro fondamentalmente con le imprese. Aspetti che c'è un ritorno, deve spegnere la radio, perché la richiamiamo subito, ma se non spegne la radio c'è un ritorno che rende impossibile ascoltarla. Pronto? Ecco, dica. Ecco, si senta. No, niente, lavoro fondamentalmente appunto con le aziende, in questo caso non mi riguarda direttamente. Però, come al solito, volevo fare così un mio intervento, la mia osservazione. Ma perché lo Stato non ci mette in grado di poter assolvere tutti gli obblighi in modo comodo? Cioè, vogliono che si trasmettano dei dati, benissimo, non c'è problema. Basta che loro ci diano i sistemi informativi, anziché fare una fattura su carta e poi caricarla in altro modo, ci diano un sistema che noi comunichiamo i dati a un a un server, a un qualcosa di loro, e poi si facciano tutti gli esami. Allora, domanda concreta, Fabrizio, che giro subito a Giacomo Milo, che ci dà una risposta sì no, perché poi abbiamo un minuto di informazione stradale. Ma non è stata predisposta, Milillo, neanche una app, un software generale a cui fare riferimento per collegarsi e fare click e mandare, no? Sì, è stato predisposto. Però, voglio dire, comunque mettere i dati non credo che sia l'attività dominante di un medico che deve curare le persone. Ah, nel senso che non è un collegamento, il collegamento però no, presuppone l'imputazione dei dati. Ah, ho capito. Beh, questo certamente è in questo che si riferiva quando diceva il tempo che bisogna mettere per farlo in un certo modo. Torniamo tra un minuto con le vostre telefonate, Giacomo Milillo, il medico agente tributario e con pazienti che non risultano all'Istat, esposto a pesanti sanzioni e a rischi penali. E questo è il tema della divertente, si fa per dire, puntata di oggi. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.48. I medici agenti delle tasse, che però rischiano, se sbagliano, oltre a doversi pagare il trasferimento e l'imputazione dei dati, nel caso in cui siano per esempio medici di famiglia, cioè non medici la cui specializzazione è tale da non prevedere chissà quale pesante onere, e che con quelli che non risultano pazienti, che non risultano nell'anagrafe, però si trovano anche esposti al rischio di un intervento per truffa ai danni dello Stato. Sentiamo ancora alcuni di voi che ci hanno chiamato. Luigi da Vicenza. Luigi, prego. Sì, buonasera a tutti. Io volevo dire che c'è un problema grosso. Il discorso della prescrizione: noi abbiamo già la ricetta elettronica e automaticamente con la ricetta elettronica i dati vengono inviati all'ASL. Ma tutti i pazienti, quelli che vengono seguiti a domicilio, per esempio, io ho 50-60 pazienti che vado a vedere anziani, e lì io devo usare il vecchio metodo tradizionale, per cui devo fare la ricetta a mano e tutto quanto. In quel caso tutti quei dati come facciamo noi a poterli trasmettere? Cioè diventa una cosa impossibile? Li dovete reimputare? No. Cioè, lei come fa in concreto? Io in concreto niente, io faccio le prescrizioni e cerco in qualche modo di prescrivere le cose in ambulatorio con ricetta elettronica e poi andare a domicilio. Però tante volte è impossibile, perché ci sono dei casi che non... Questo naturalmente, Luigi, significherà però che in quel caso per quei contribuenti che sono nelle condizioni che lei sta descrivendo, cioè pazienti a domicilio eccetera eccetera, attenti cari ascoltatori, perché non vi risulteranno le cose nel 730 precompilato, ma non per cattiva volontà. Allora sentiamo invece Lello da Firenze. Medico anche lei? Sì, buonasera. Buonasera. Sono medico. Sì. Senta, che mi toccherà, come ha detto il collega, pagare il commercialista di più per poter fargli fare questa cosa qua, perché io non so come fare, l'ho spiegato. Sì. Poi il mio commercialista mi ha detto che comunque tutte queste informazioni non andranno dove vanno tutte le informazioni fiscali, ma in un'altra branca gestita da un'altra società che non si capisce di chi è, chi c'entra, chi ci fa parte, se c'è qualche familiare, qualche cosa. Ecco, c'è anche questo aspetto. Quindi questa notizia l'ha lasciata ulteriormente perplesso sul fatto che non sia trattati i dati direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Umberto da Vercelli invece? Sì, buonasera. Giannino, volevo dare un contributo un po' differente rispetto ai colleghi. Prima di tutto va fatta una differenza tra il lavoro che dovrebbero fare i medici di base, i medici di famiglia e gli specialisti. Quello che ho provato a dire prima, certo. E infatti, io porto l'esperienza specialistica. Nell'esperienza specialistica bisogna distinguere medici che possiedono la partita IVA e medici che non possiedono la partita IVA. La maggior parte dei medici specialisti non possiede la partita IVA lavorando in ospedale. Questo lavoro lo fa l'ASL, lo fa l'ospedale, quindi non è un problema per i medici. Per chi invece possiede la partita IVA, le dico che io ho trovato questo sistema molto funzionale ed utile, perché in effetti è possibile inserire in maniera abbastanza semplice, una volta che si acceda al sistema, tutti i dati delle fatture. chiaramente sono d'accordo col primo collega che diceva che il sistema va ottimizzato, e sicuramente l'introduzione di un sistema informatico già per la refertazione iniziale, per la ricettazione iniziale, sarebbe molto utile. Ho capito, però lei dice, per essere un primo esperimento e distinguendo gli specialisti, che insomma per loro lo fa l'ASL, da il carico invece maggiore che sta sui medici di base, dentisti per esempio e così via, cioè chi ha partita IVA, però insomma l'esperienza che ha fatto lei non è così impossibile, per così dire. Stefano da Vicenza invece. Sì, volevo solo intervenire sul fatto che comunque i dati che noi forniamo alla Vivero lavorano in un'anagrafe. Ah, quindi sul problema di chi non risulta tra Istat e Comuni. Sì, perché se lei pensi che per cancellare una persona che noi siamo a conoscenza perfettamente che non è sul territorio, ci mettiamo un anno a cancellarlo. Un anno? Un anno dopo quattro sopralluoghi, quindi quattro volte che si reca l'ufficiale d'anagrafe o il vigile, dopo che la casa dove era residente questa persona è stata messa all'asta, venduta, e all'interno ci sono altre persone, tutto chiaro e lampante, pensi passino 365 giorni prima che noi possiamo emettere un provvedimento di cancellazione. Lo ritengo veramente assurdo. Quindi tassa dei rifiuti, incombenze, soldi non versati. Va a persone che non esistono, quindi questo produce una mole di monumenti, di documenti. Una mole di lavoro che è insostenibile per noi comuni, ma io le dico che ho una lista di 50 persone da cancellare e attendo giornalmente che il sistema mi dica oggi lo puoi cancellare, cosa che... No, ecco, capite bene, cari ascoltatori, che se parliamo di una quantità di documenti che, ripeto, la discrasia tra le due anagrafi su cui si è cominciato a lavorare quando era di quasi 3 milioni di individui, cioè non stiamo parlando proprio di una goccia nel mare. Sentiamo ancora Mirko da Milano. Mirko. Sì, buonasera. Buonasera. Ma senta, per quanto riguarda l'anagrafe, piove sul bagnato, nel senso che esistono pazienti che sono deceduti da anni, che ci risultano ancora in carico, i pazienti che noi curiamo tutti i giorni, che a un certo punto arrivano e dice non è più riconosciuto dal MEF. Ma lei a quel punto non può fargli la ricetta telematica, però quella digitale elettronica, deve fargli quella scritta. Ovviamente. Poi per il resto... Ed è consapevole, però... ecco, se ne frega, però lei è consapevole, come ha detto la ASL, il dottor Sampieri, che è andato a chiedere istruzioni, che in quel caso lei rischia contestazioni e anche un procedimento penale. Qui se ne rischiano ogni 5 minuti qualche cosa che potrebbe essere perseguito. Poi in realtà poi questi pazienti che li abbiamo curati magari per 3 anni, succede che li mandiamo a farsi riscrivere, li riscrivono, però intanto la famosa quota capitoria dei 3 anni precedenti chi l'ha vista? E va bene. Mamma mia. Poi volevo dire, la ricetta dematerializzata, la parola stessa, per come viene usata la ricetta dematerializzata, è ridicola, perché in realtà siamo costretti a scrivere su una ricetta che è bianca. Faccio presente che i moduli rossi ce li dava lo Stato. Sì, certo. Esatto, questi invece ce li dobbiamo comprare noi, come pure la stampante a 2 cassetti che abbiamo dovuto comprare, ma tanto anche lì paga sempre Pantalone. Fortunatamente, per quanto riguarda l'invio dei 730, a noi in Lombardia ce l'hanno detto in dicembre, dovevamo essere pronti per il 31 gennaio. Già. Io ho un provider di un sistema di cartella clinica che fortunatamente, facendo tutte le fatture attraverso quel sistema, essendo tutte si trova a posto, le ho mandate e non ho avuto problemi. Però in altre realtà d'Italia mi pare di capire che non sia così. Sentiamo ancora Vincenzo da Chieti, rapido. Vincenzo. Sì, salve. Niente, io volevo portare la mia esperienza in quanto sono un medico di guardia medica. Sì. E per quanto riguarda l'argomento dell'invio delle fatture, dati, eccetera, praticamente capita spesso che pazienti fuori regione, quindi turisti, vengono in visita in guardia medica, certo, senza documenti. Però noi siamo tenuti a farci pagare la visita ambulatoriale o domiciliare, e quindi noi, per esempio, io personalmente ho dovuto rintracciare queste persone in quanto nel sistema dovevo inserire il codice fiscale che non mi avevano lasciato. E quindi io avevo soltanto il nome e cognome. E allora, mi pare di capire che l'esperienza complessiva di questi oneri tributari accessori, per essere il terminale delle prestazioni sanitarie pubbliche, sia una realtà che valeva la pena di descrivere ai nostri ascoltatori, perché molti ignorano che alla fine i medici hanno anche queste incombenze, aggravate significativamente sia per sanzioni sia per quantità di tempo e modalità. Non dovunque c'è questa efficienza di cui hanno parlato alcuni. Un abbraccio a Giacomo Lillo e a tutti gli iscritti alla sua associazione, come alle altre associazioni del mondo dei medici, perché c'è bisogno di medici motivati e non è molto facile quando ci sono anche questi problemi aggiuntivi. Continuate con Radio 24, appuntamento con me e i miei altri compari dei Conti La Belva domani dalle 10 alle 12 qui a Radio 24.